Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento con i settimanali e i mensili italiani e stranieri che con le notizie più curiose o anche più interessanti da leggere. Noi di tanto in tanto torniamo su un tema in questa trasmissione, di quello dei tic linguistici. Naturalmente potete immaginare che sia Anita Panizza sia io, lavorando appunto di parole, con le parole, siamo particolarmente sensibili a questi tic, questi modi di dire che possono affiorare anche nei modi più impensati, più imprevedibili. Si occupa proprio di tic linguistici con un articolo divertente. Filippo La Porta sull'Espresso lancia una provocazione. Già il titolo è divertente, dice: e Giulio Cesare disse tipo il dado è tratto, e questo per prendere in giro appunto questa mania che alcuni di noi hanno di usare la premessa tipo, questa parola, per appunto dare poi più forza o ridurre la forza o dare un particolare colore alle loro affermazioni. E Filippo La Porta prova anche a individuare un po' come stanno evolvendo questi tic. Lo dico perché se altri lavorano con le parole può servire, oltretutto mi sembra anche molto divertente. Ci sono, dice, questi tic che sono da ansia di rassicurazione e autorassicurazione, quelli che appunto quando ti incontrano ti chiedono tutto a posto, in realtà non intendono sapere se davvero ti va bene, ma piuttosto placare la propria ansia, vogliono a tutti i costi che tutto sia a posto, che niente possa turbare il loro precarissimo equilibrio. Una variante del tutto a posto, nota Filippo La Porta, è il non c'è problema. E dice: io su non c'è problema, spiega La Porta, mi preoccupo moltissimo, perché qualche anno fa ho chiesto a mio figlio come erano andati i quadri scolastici, lui mi ha risposto non c'è problema, mi hanno bocciato. E quindi questo, allo stesso modo, dice, ci sarebbe da preoccuparsi dello sciame incontrollato degli assolutamente, e si chiede: ma quando uno risponde assolutamente vorrà dire sì o vorrà dire no? E poi l'ossessivo tranquillo, di origine latinoamericana, e anche il minimalista, così lo dice, lo definisce lui, niente a inizio di qualsiasi discorso, anche se poi prelude al racconto di un evento magari molto grave, quindi non si tratta proprio di cosa da niente. E poi il tormentone dei calciatori nelle interviste del dopo partita. Questo è un periodo dell'anno in cui abbiamo meno occasione di ascoltarli, però è vero che, come segnala La Porta, prediligono l'avverbio sicuramente, e l'effetto, dice, qui può essere proprio comico. Immaginate il monologo shakespeariano: essere o non essere, sicuramente non c'è problema. Però l'avverbio sicuramente è abbastanza abusivo dagli sportivi nelle loro interviste. Poi ci sono, dice, le formule di saluto legate alla società dello spettacolo. Un amico non ti vede da un anno, lo saluti normalmente, lui dice allora, e come allora in quel momento, però quell'allora sta a comunicare un desiderio quasi infantile di continue novità. E poi i vezzi della middle class culturale, che è nata dall'alfabetizzazione veloce, scrive sempre La Porta. Se ogni tre parole, dice, mettiamo un come dire, ecco, vogliamo in realtà far sapere che siamo molto problematici, che non riusciamo a trovare le parole per dirlo, tanto abbiamo un pensiero labirintico e sottile. Poi c'è anche l'infatti sì, il ma anche, e così via. E infine il tipo, appunto l'uso della parola tipo, che dà il titolo all'articolo, e appunto serve per aprire con dando quella che lui chiama una modernità liquida alle frasi. Non si dice più ieri sera sono andato al cinema, ma tipo che sono andato al cinema, e dice così l'esistenza diventa meravigliosamente fluida, sperimentale, fatta di tante ipotesi, tipo che mi piace il mare, tipo che mi piace la montagna, e l'esperienza si dissolve nei suoi infiniti cataloghi. Tutto questo dall'Espresso, Filippo La Porta. رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش بالاعذاب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاكاتك ما على بالوش مدام. E questo probabilmente non è il solito stacco, probabilmente qualcuno l'ha riconosciuto, più di uno speriamo lo ha riconosciuto. Non è lo stacco che usiamo vitalmente per separare le varie segnalazioni che vi facciamo in questa rassegna stampa. stampa. Questo invece è un passaggio di un rap che fa parte di una delle cosiddette musiche ribelli del momento. Il rap è tunisino, il gruppo si chiama Reyes Le Bled ed è una canzone che ha avuto una forte notorietà proprio nel fatto dei movimenti di protesta nordafricani, appunto, in Tunisia. Dice, tra l'altro, così riporta Vanity Fair, che ha fatto una sorta di micromappa della musica ribelle: Presidente, il tuo popolo è morto, abbiamo solo problemi miserabili. Una canzone quindi molto agguerrita, dalle parole molto forti. Rap e Kashba è il titolo della doppia pagina in cui René Soave ha cercato di raccogliere la musica ribelle del momento. Musica ribelle era il titolo di una fortunata canzone di Eugenio Finardi, ma ohimè per chi come me è stato giovane qualche anno fa. Ora i movimenti di protesta hanno naturalmente le loro musiche, le loro canzoni, e questa mappa si sforza di ricostruirla. Ci sono movimenti di protesta a Cuba che hanno un loro gruppo favorito, ci sono movimenti di protesta ovviamente in Spagna, gli Indignados che abbiamo visto in televisione, ci sono i movimenti di protesta greca e di vari movimenti, insomma, si riconoscono in per lo più musica rap che accompagna le proteste, che fa un po' da colonna sonora di queste proteste. Scrive Soave: John Lennon è morto, nessun movimento nelle piazze del mondo canta più Give Peace a Chance. Le canzoni di protesta loro sono fuori moda? Sì, secondo Dorian Lynskey, che è il critico musicale del Guardian, che spiega come nei 33 brani più famosi della storia del rock impegnato solo un paio abbiano meno di 40 anni. Però controbatte Irene Soave molto pacatamente: guardando la cronaca degli ultimi mesi si vede bene che la musica ribelle non è affatto morta, anzi tutti, dagli Indignados agli egiziani di Piazza Tahrir, hanno un inno di protesta, solo che non ci sono ballate rock ma pezzi rap e pezzi di hip hop. Eccone una mappa, ed è la mappa che viene presentata su Vanity Fair, che passa tra l'altro anche da casa nostra, ci sono anche delle citazioni per gruppi italiani. Abbiamo forse Anita Panizza pazientemente andata a cercare un po' di questi gruppi. Prima vi abbiamo fatto sentire i Reyes Le Bled, vi facciamo sentire il rapper di protesta cubano. Hanno un nome che al brano, che è tutto un programma, El Coma Andante, e il gioco di parole funziona benissimo anche in italiano, perché se lo leggete di seguito diventa Il Comandante, El Comandante, e quindi le parole dicono, tra l'altro: il comandante vuole che lavori per darmi il suo salario umiliante, il comandante vuole che lo applauda in ogni suo discorso delirante. Tutto questo viene cantato a Cuba, quindi questi ragazzi hanno anche del coraggio. Sentiamoli. Il comandante quiere que yo trabaje pagándome un salario miserable. Il comandante quiere que yo lo aplauda después de hablar su mierda delirante. Allora, cambiamo completamente argomento, veniamo a qualche cosa di molto più astratto, ma in realtà di molto più sentimentale. I numeri. Sul venerdì di questa settimana si segnala l'iniziativa di un matematico inglese, si chiama Alex Bellos, ha costruito un sito su cui chiunque può rivelare la cifra che preferisce, cioè il numero che gli piace. Che numero ti piace? È la domanda. Ha ricevuto più di 12.000 risposte e così ha potuto fare anche una classifica, cioè quali sono i numeri che ci piacciono. In testa c'è il numero 7, c'è il numero 1, poi c'è il numero 1, il numero 3, il numero 13, il numero 8. Questi sono i numeri che hanno avuto più preferenze sul suo sito, che è www.favoritenumber.net. Tra favorite e number credo ci sia un trattino alto. Chiunque può rivelarmi, spiega lui stesso a Giuliano Aluffi sul venerdì, quale numero preferisce e perché. Dice che ci sono gli schemi ricorrenti, perché le risposte si concentrano su un insieme molto ristretto di numeri. Il 42% ha scelto poi un numero tra 1 e 10. Questo, tra l'altro, conferma altri studi che erano stati fatti e secondo i quali, tra i motivi per cui un numero ci suscita sensazioni positive, ci sono la facilità e la frequenza con le quali lo usiamo. E poi c'è la popolarità, non la solitudine, la popolarità dei numeri primi. 4 dei primi 5 numeri che sono preferiti sono il 7, l'1, il 3 e il 13, sono dispari e sono, a parte l'1, dei numeri primi. Poi c'è l'8 che piace in generale per le sue forme. C'è da segnalare che più della metà sceglie un numero dispari. Poi ci sono quelli un po' più, diciamo, raffinati che scelgono ad esempio il 73. Ora, 73 è un numero primo e il suo speculare, cioè il 37, è pure un numero primo. Quindi se vi piace il 37 o il 73, sappiate che vi collocate proprio su un numero che ha questa particolarità. Molti naturalmente scelgono il giorno del compleanno, per lo più però chi fa questa scelta finisce su un numero dispari. Una curiosità, se volete, la trovate sul venerdì che era in edicola con Repubblica questa settimana. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Nella prima parte abbiamo parlato un po' di musica, musica di protesta, musica ribelle, ne abbiamo anche sentito qualche pezzettino, poi abbiamo parlato di numeri. Allora vorrei restare un po' sull'ambito di numeri, tecnologia e così via. Sul Focus di agosto, che è già in edicola da pochissimi giorni, c'è la rubrica curata da Kevin Kelly, che è un blogger, cioè un autore di blog, e fa delle riflessioni sulla tecnologia, su come la tecnologia cambia la nostra vita. Questa volta dedica la sua puntata alla simultaneità. Cosa vuol dire? In realtà la parola significa che ci siamo sempre più abituati a volere tutto subito. Questo non tanto dal punto di vista, appunto, di una rivendicazione rivoluzionaria, quanto dal punto di vista proprio del nostro rapporto con la tecnologia o il consumo. Fare bonifici a 5 giorni, comprare libri un mese prima di leggerli, così si spiega, inutile, perché tutto si può fare al momento. E dice, gli sportelli bancomat, tanto per entrare in tema, dice, gli sportelli bancomat sono stati un caso di simultaneità bancaria. Perché devo aspettare di andare in banca di giorno quando ho bisogno di soldi la sera e proprio in quel momento lì? Bene, sono nati allora questi sportelli per adeguarci a un concetto analogo: paga subito, ritira i soldi subito. La nuova frontiera della modernità, scrive Kevin Kelly, è qualsiasi cosa che ci porta verso queste interazioni in tempo reale. E ultimamente, anche nella mia vita, spiega, ho notato due nuovi esempi di simultaneità. Uno è la visione istantanea dal punto di vista, appunto, degli spettatori. Le nostre abitudini di spettatori stanno cambiando da quando è aumentata la raccolta di film in visione istantanea, cioè in molti casi non guardiamo più i film sui DVD, sulle cassette, su qualsiasi altro supporto, nonostante i cataloghi ci siano ricchi. Succede che se un film non è disponibile in modalità cosiddetta streaming, cioè subito visibile, beh, lo ignoriamo e ne troviamo un altro che permetta la visione istantanea. Non consideriamo, insomma, più abbastanza veloci i tempi, peraltro molto ridotti, magari di 2 giorni, della spedizione di un DVD. E poi i libri digitali. Spesso, racconta Kelly, compravo i libri prima ancora di avere l'intenzione di leggerli. Questo in realtà è una riflessione, insomma, che riguarda molti di noi. Quando in libreria ci cade l'occhio su un libro interessante, magari ci incuriosisce una frase che sta nella quarta di copertina, piuttosto che un disegno, piuttosto che un passaggio che sbirciamo sfogliando il libro, bene, decidiamo di acquistare il libro, ma non è che abbiamo proprio deciso di leggerlo, abbiamo deciso che vogliamo quel libro perché abbiamo il desiderio di leggerlo. Bene, quindi, dice Kelly, abbiamo spesso comprato i libri così, ma man mano che si sta diffondendo la possibilità di avere i libri su Kindle, sui supporti digitali, e quindi di poter accedere al libro in visione istantanea, anche lì come il film, ecco, anche questo mi porta a privilegiare il libro che ho disponibile. Ma tutto questo perché succede? Beh, in realtà, argomenta Kelly, perché la risorsa che oggi più ci manca è il tempo. Quindi già da alcuni decenni il mondo del commercio ha dato vita a un cambiamento progressivo che ha proprio l'obiettivo di far risparmiare tempo ai clienti. Quindi il caffè istantaneo, la cottura a microonde, lo stesso McDrive, i negozi negozi self-service, sono tutte cose che vanno in questa direzione. Risparmiare tempo, cioè ridurre il tempo impiegato per fare qualcosa, è solo in realtà un aspetto della questione, spiega Kelly su Focus. Il punto di tutti questi servizi e beni è poi continuare a ridurre il tempo di attesa fino ad arrivare appunto al funzionamento in tempo reale. Quindi l'obiettivo non è che noi riduciamo la quantità di tempo che impieghiamo a leggere il libro o a guardare il film, anzi magari ne impieghiamo ancora di più, ma che riduciamo proprio il tempo dell'attesa tra l'acquisto del film, l'acquisto del libro, l'acquisto del prodotto in genere e il suo utilizzo. Lo riduciamo quasi a zero, è quello che succede appunto con le visioni in streaming. Allora, visto che oggi stiamo un po' sui tic, sui cambiamenti sociali, sociologici e così via, voglio tornare a una risposta di Severgnini che ho trovato su 7 giovedì e che mi ha divertito, spero sia gradevole anche per voi, l'uso del tu, l'insopportabile uso del tu. Dice Severgnini: è gradevole quando viene proposto educatamente, però penso che la moda di apostrofare chiunque in modo così familiare sia irreversibile. La risposta nasce dalla lettera di un lettore che lamenta appunto questa moda di dare del tu a tutti, ragazzini che potrebbero essere tuoi figli o addirittura nipoti ti apostrofano con questo confidenziale pronome. Sarà, dice, forse un inglesismo? In realtà Severgnini argomenta distinguendo vari tu. C'è il tu prepotente, appunto il barista cinquantenne che si sente dare del tu dal primo che passa, fammi un caffè, e che però non può poi restituirlo. C'è il tu confidenziale, quello del dirigente d'azienda che si rivolge alla nuova assunta trentenne come fosse sua figlia, e questo dice poi: se la giovane donna è carina va pure peggio, perché magari al tu si uniscono dei vezzeggiativi indesiderati, ammonisce Severgnini. Dopo i 25 anni siamo tutti adulti, quando non esistono motivi di amicizia, familiarità o colleganza è meglio, è bene partire con il lei, poi si vedrà. E poi c'è il tu trasandato, l'infermiera ventenne che si rivolge al paziente, magari un anziano professore in pensione, che gli dice: tu mettiti lì e aspetta. E questo è effettivamente un tu trasandato, un tu decisamente fuori luogo. Queste regole, spiega, hanno un'eccezione: sopra i 90 anni si è autorizzati a dare del tu a tutti, compreso il Presidente della Repubblica. Ho un babbo, racconta lo stesso Severgnini, nato nel 1917, che si giustifica così: ma a me sembrano tutti ragazzi, come faccio a dargli del lei? Allora, visto che abbiamo questa chiusura sugli anziani e sui giovani, sull'uso un po' giovane o giovanilistico forse del tu, voglio tornare su un altro mensile. Ne abbiamo parlato, abbiamo citato un lavoro di questo mensile anche settimana scorsa, a dire la verità. Il mensile è E, si chiama proprio così, E, il mensile è legato a Emergency, da lì deriva la E, e racconta di questa esperienza che fanno in Spagna, più precisamente che hanno cominciato a fare a Barcellona, quindi in Catalogna. La strana coppia, cioè convivenze tra giovani studenti universitari e anziani. Perché questo problema? Per risolvere due esigenze sociali: la solitudine delle persone anziane e quindi la necessità di avere qualcuno che si preoccupi, che li aiuti nelle mansioni quotidiane, e la difficoltà a trovare un alloggio da parte degli studenti universitari. A Barcellona, racconta Michele Primi, gli anziani soli accolgono in casa gli studenti, alloggio gratuito in cambio di compagnia, però devono avere dei buoni voti. Il sistema funziona e si sta estendendo a tutta la Spagna. La cosa è nata su iniziativa della Caixa Catalunya, che è la cassa di risparmio di Barcellona, l'idea è quella appunto della convivenza solidale tra anziani e studenti. Il nome in spagnolo è viure e convivere, cioè vivere e convivere. È semplicissimo, spiega Primi: un anziano accoglie in casa uno studente offrendo alloggio gratuito in cambio di compagnia. È partito 15 anni fa in un solo quartiere, oggi è esteso in 31 città spagnole e nell'ultimo anno accademico ha fatto registrare 360 convivenze, 255 nella sola Catalogna, con una percentuale del 35% di studenti stranieri che provenivano da 27 paesi diversi. Le regole, appunto, come funziona questo tipo di convivenza giovani-anziani? C'è una selezione delle coppie che si vanno a creare appunto tra lo studente e la persona che lo ospiterà. La selezione è affidata a un team di psicologi che raccoglie le richieste, fa dei colloqui per capire i problemi e le esigenze e poi controlla ogni mese se le cose vanno bene. C'è un periodo di prova di 30 giorni, poi si firma un accordo. L'alloggio è gratuito, dura quanto l'anno accademico, è legato però ai risultati degli esami. Lo studente deve impegnarsi a tornare a casa entro le 10 di sera per 6 giorni ogni settimana. Deve fare compagnia all'anziano, deve svolgere alcuni compiti come portare le borse e la spesa, accompagnarlo dal medico. Funziona, spiega una appunto di queste persone che ospita studenti, la signora Carmen, funziona perché le regole sono chiare. Sono anche, dice, io sono una delle più richieste perché tratto i ragazzi come fossero tutti i miei nipoti. Ad esempio nell'accordo non c'è scritto che si deve cucinare per loro, però io lo faccio. Questo è appunto una delle esperienze che si stanno facendo, la cosa si sta diffondendo e permette di risparmiare soprattutto sul prezzo molto elevato degli alloggi per quanto riguarda gli universitari e quindi di risolvere in qualche modo due questioni sociali in una. Allora, Fabio Cantadori anche questa mattina con me in regia, mi fa cenno che siamo arrivati alla conclusione. Allora io vi ringrazio di averci seguito, di aver seguito Magazine 24 che ritornerà sabato prossimo. Ovviamente grazie a Fabio Cantadori, grazie soprattutto ad Anita Panizza che ha cercato anche quelle musiche ribelli che vi abbiamo fatto ascoltare nella prima parte. Vi ricordo che come ogni domenica trovate anche oggi il racconto d'autore in vendita con il Sole 24 Ore, questa volta i racconti sono due, di Abraham Yehoshua, Le nozze di Galia e Di fronte ai boschi sono i due titoli del racconto che trovate in vendita oggi con il Sole 24 Ore. Buona domenica e a risentirci sabato prossimo.